Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Ma voi chi diavolo vi credete di essere? Siete solo hobbits. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Probabilmente un mancato rispetto di comando, un comando sbagliato. Questo lo si saprà dopo. Let it shine. Even in your home, you got to let it shine upon your people now. Even in your home. L'assoluta richiesta, senza alcuna sconto, di capire chi sono i responsabili di questo incidente, che cosa è accaduto, perché penso che sia una vicenda sulla quale fare totalmente chiarezza. You got to let it shine. Jesus, give to me too. I'm gonna let mine shine. Sicuramente il governo non farà sconti a nessuno nell'accertamento delle responsabilità. Dobbiamo capire chi ha sbagliato. Si sono scontrati in piena velocità. Binario unico, un errore, si capirà come e perché. E così ci svegliamo, cari ascoltatori, e lo sapete, purtroppo la notizia tragica di ieri, di questo scontro tra treni in Puglia, sono 27 i morti, 27. Il problema è che, lo so che è triste dirlo, è brutto dirlo, ma non essendo un aereo, quindi non è che sul treno ci sono i posti assegnati, c'è la lista, sale un po' chiunque, non si sa neanche quante persone fossero a bordo, soprattutto in quei due convogli che sono scontrati. Come dire, i soccorritori sono in difficoltà, ecco, a capire anche il numero delle persone che erano a bordo. 27 le persone morte accertate, molti feriti. E così, e soprattutto le polemiche sul binario unico. Ah, questa notizia che c'è un po' su tutti i giornali. Guardate qui La Stampa. C'erano 180 milioni stanziati da anni per il raddoppio del binario in Puglia. 180 milioni della matrigna Europa. È la cattiva Europa. La cattiva Bruxelles. 180 milioni. L'Italia non ha mai utilizzato questi soldi per fare il raddoppio del binario. E così, insomma, ci regoliamo ancora con i comandi via telefono, via fonogrammi, e purtroppo poi è già un miracolo che accadano così di rado, insomma, verrebbe da pensare queste tragedie. Va bene, sono le 6:34 minuti, buongiorno signori, questo è 24 mattino, come sapete andiamo avanti fino al 29 di luglio, in diretta, rigorosa, c'è Paolo Corleone in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione. Vabbè, si sa, oggi il clima è un po' così, però questo è anche un modo per svegliarsi col sorriso sulle labbra, non dimenticatelo mai, mai, cari ascoltatori, mai. E allora io ho deciso che ho trovato il mio lavoro per il futuro, mi licenzio e vi saluto e vorrei prendere il posto di un signore che si chiama Olivier, in Francia, che guadagna 593.700 euro l'anno, lordi, l'anno, Il signor Olivier è il parrucchiere di Hollande, il presidente francese. Guadagna questa cifra, lievemente spropositata, io credo. Ci sono le polemiche in Francia. 593.700 euro lordi, però fanno sapere è a disposizione 24 ore su 24. Vabbè, insomma, ragazzi, 593.000 euro, ora tocca imparare il francese, entrare nei canali giusti all'Eliseo e imparare a fare il parrucchiere, poi è fatta. Allora, signori, sono le 6:36 minuti. Voglio subito convocare e salutare Flavia Perina. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Come va? Come va a forbici, bene, a forbici e rasoio? No, questi sono mestieri fantastici. La Francia si vede che è un po' rimasta al tempo là del Re Sole, con quelle parrucche, con quelle cose lì, magari raggiungiamo 593.000 euro dovendo mettere su quella roba lì, magari era giustificato. Si vede che i salari sono rimasti fermi al 700. È bello. Noi ce la prendiamo per i parrucchieri alla Camera. Poi Flavia Perina è stata alla Camera, adesso ci deve raccontare qualcosa, se esistono questi fantomatici. No, quel parrucchiere non lo so, perché c'è solo il barbiere alla Camera. Barbiere, il parrucchiere adesso... per le donne non. Ah, vabbè, ho capito. Io non sono mai stato al barbiere perché è una cosa per uomini. Ho capito, ma c'è perché fa solo la barba e non è capace di sistemare. Non lo so, fa la barba e i capelli, ma gli uomini credo. Io non so, sì, forse se ci va anche una donna, magari. Ma come gli uomini? Ma è una roba, ma è com'è che la Boldrini non tuona contro questa cosa? C'è stata più volte iniziative di singole parlamentari, un po' di tutti gli schieramenti, devo dire, che hanno richiesto che il servizio venisse esteso alle donne. Poi la cosa è finita lì, perché veramente era ridicolo. Già è piuttosto buffo che esista un barbiere per gli uomini, figuriamoci se ci si mette anche il parrucchiere per le donne, anche perché la zona intorno alla Camera è piena di parrucchieri e di barbieri per uomini, per donne. Insomma, basta uscire, farsi due passi e fare a prezzo ridotto, non so, ai prezzi normali di Roma. Normale. La battaglia delle deputate, anche noi vogliamo farci fare la barba. Beh, donne, però devo dire sono stati rari casi, poi ci si è tutte vergognate, si è lasciato correre. Anche quelli sono retaggi di un tempo proprio secolare, quando penso la Camera dei Deputati era una specie di club per vecchi gentiluomini che andavano lì e fare barba ai capelli. Insomma, dai, andiamo ad aprire il Parlamento a questo proposito. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Allora, oggi con noi c'è Flavia Perina, il nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini, al momento è scomparso, desaparecido, non lo so, non risponde al telefono. Mi ha suonato la sveglia. Infatti, si è addormentato, non si è svegliato, non si sa. Comunque, insomma, arriverà. Ecco, vedete, io lo sapevo, sono qua sul giornale, lo sapevo, vedi? Vedete, lo mostro anche in diretta radiofonica, ecco, potete guardare tutti sul giornale il commento sulla trasformazione dei topi da topolino a ratatouille, i topi, lo sapevo, adesso non ce ne libereremo l'estate, arriveranno i serpenti adesso a Roma, i baccherozzi, le blatte. È più o meno lo stesso articolo che gira da 25 anni, sì, viene ripreso ogni estate nelle redazioni, si cambiano alcune virgole e viene ripubblicato. Geronimo Stilton sul giornale. Ratatouille non c'è? Ratatouille, eccolo qua, Ratatouille. Topo Gigio. E parla del topo norvegicus, perché io li so a memoria questi articoli. Cos'è il topo norvegicus? Questa è la tesi, che c'è stata una orrenda evoluzione di questi topi, che da piccoli topi si sono incrociati con un topo norvegicus e sono diventati grossi topi cattivi. Oh mamma mia! Cioè, tipo i topi vichinghi, un topo vichingo. Sì, una specie di topo vichingo. Sì, il topo vichingo. A Roma si dice sorci, poi sono i sorci, sono i sorci di sempre. Vabbè, insomma, adesso ci saranno i serpenti, vedrete, se non ci saranno le foto pubblicate, il serpente più lungo, il serpente più corto, il serpente più velenoso. E vabbè, insomma, questo succede a Roma. Va bene, dai, Flavia, parliamo un po' di politica. Cosa c'è da registrare? Una lite Renzi-D'Alema, urca. Capirai, vabbè, questa non è nuova. Insomma, è un mese e mezzo che c'è una lite Renzi-D'Alema. Sì. Penso che Renzi abbia scelto D'Alema come suo alter ego, nemico in questa battaglia per il referendum. Come antagonista in questa vicenda, perché è perfettamente consapevole che gli fa comodo tornare a quella visione un po' di qualche anno fa in cui Renzi era il nuovo che combatteva contro il vecchio, quindi ripropone un po' questo schema. Sì, un pochino sì. Si è discusso di banche, Renzi ha fatto una battuta su D'Alema, le banche, sulla privatizzazione, D'Alema gli ha detto e dici un po' dell'insider trading di Banca Etruria. Perché D'Alema non se ne tiene. Non se ne tiene. No. Così. Lo so, però me lo sarei aspettato un'accusa a Renzi così, non so, da parte di un Salvini, un Berlusconi. Ma sai, quando le persone non hanno più niente da perdere, D'Alema è uno che non ha più niente da perdere, si è assunto questo ruolo di antagonista di Renzi e parla un po' a ruota libera da qualche tempo, no? Infatti sì, uno se l'aspettava da altre persone, magari da un'opposizione di centrodestra, però lì su questa storia delle banche io vedo che stanno tutti quanti molto cauti, insomma. Eh sì, stanno tutti molto schisci, si dice a Milano. Molto schisci, a Milano si dice così. Allora, però, c'è un annuncio che Renzi ha fatto, l'aveva già detto una volta su RTL, l'ha ridetto ieri, senti qua, su Equitalia. Io dico, ma c'è una cosa più... Vabbè, lo dico dopo, prima sentiamola. Equitalia. C'è una cosa più storitellosa di questa... Più storitellosa, no, cioè aboliremo. Aboliremo Equitalia. Ma che vuol dire? Cioè, le tasse si pagano come... È come aboliremo l'ICI. No, è una cosa, è una grande immagine, è un sogno che tu fai vedere. Aboliremo l'ICI. Molti italiani pensano, zio, adesso non canto la cartella Equitalia che mi è arrivata. Appunto. E poi si vede. Ma almeno aboliremo l'ICI, poi magari metti altre imposte, eccetera. Però inizialmente aboliremo l'ICI, dici, oh, guarda, non pago più le tasse, ma aboliremo Equitalia e la chiamerete in un altro modo e le tasse sono sempre quelle. Comunque Renzi, dai. Entro l'anno arriverà il decreto che cambierà definitivamente il modo di concepire il rapporto fisco cittadini. Equitalia non ci sarà più, che non vuol dire che non si pagano le multe, però si pagano in modo totalmente diverso. Lo dice pure lui. In modo diverso. Voi andrete lì e dite che bello, oggi pago la multa, la pago a Iniquitalia. Oh, così, Iniquitalia, la chiameremo Iniquitalia. Ma porca miseria, ma... Beh, comunque Equitalia è un soggetto odiato in Italia. Ho capito, allora gli cambiamo il nome. È in un momento in cui sta proprio, diciamo, un po' nei guai con i sondaggi, con la sua immagine, eccetera. E ovviamente questa è una promessa che a molti piacerà, perché tanti mica se ne rendono conto che comunque poi alla fine queste multe, come si chiama, ma andranno pagate. E c'è da dire che forse si può davvero trovare un modo più equo sulle realizzazioni, sul resto, magari è possibile. Ma sì, dai, però... Staremo a vedere. Però l'ho sentita dire, cioè è un anno e mezzo che viene detto aboliremo Equitalia e Equitalia sta sempre là con le code qua a Roma dalle 5:30 di mattina circa, perché tra l'altro gli uffici Equitalia qui lavorano soltanto a mezza giornata, solo fino all'una. Quindi ci sono delle code bibliche fin dall'alba con dei bigliettini prestampati da singoli avventori per tenere ordine, perché sennò scoprirebbero delle sommosse addirittura. Magari si può fare qualcosa di più umano anche del pagamento di queste tasse dovute o non dovute. Però vedi che è Olivier che ha colto l'attenzione dei nostri ascoltatori al 349-238-6666. Olivier è il barbiere, il barbiere francese. Giustamente fanno molto notare che Hollande non richiede grande impegno, cioè ha tre capelli in testa, sì, la barba, ecco, questo sì, ma è semipelato, qualcuno ci fa... è un capo di Stato... I semipelati sono quelli più difficili, i semipelati, sai, sono buoni tutti, quando uno ha i capelli sono buoni tutti. Come fai semipelato si deve lavorare tantissimo. Che fa il riportone? Capito? Effettivamente, il riportone, anche perché il semipelato ti guarda, è Hollande e dice: Olivier, Oggi li voglio con la riga in mezzo. E tu che cazzo fai? Lo guardi e dici: ma presidente, Olivier, guadagni 593.000 euro all'anno. Va riga. E tu devi accontentarlo, quello. Certo. E l'abilità e anche il salario. Ti fa ghigliottinare, non lo so, bisogna stare attenti. Insomma, comunque, Olivier raccoglie grande entusiasmo dei nostri ascoltatori. Tutti vogliono fare gli Olivier, tutti si mettono in coda, sì. Tutti gli Olivier. Signori, quando si aprirà il bando per il parrucchiere dell'Eliseo, ve lo faremo sapere. Tutti a fare Olivier. E vabbè, comunque, Equitalia è così. Che vi devo dire? Dobbiamo andare al traffico prima, o vogliamo prima sentire la Raggi? Vogliamo prima sentire la Raggi? Adesso Flavia Perina ci deve raccontare un po' come cosa ne pensa della Raggi. Anzi, no, andiamo al traffico, no? Perché sapete, Flavia Perina doveva fare il capo della comunicazione di Giachetti, avesse vinto comune, sì, in comune. Sì, sì. Vabbè, adesso ci dice un po' come va la Raggi dopo il traffico, a comunicazione tra poco. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli del traffico. Traffico. Troppi comunisti c'è in quella trasmissione, te prima seminate odio, odiosi. Oh, ieri mentre passeggiavo per Roma, a momenti il coccodrillo mi danna un polpaccio. Raggi, attate da fa che qua peggioriamo soltanto. Milan, Renzi dice, se perdo me ne vado. Renzi, vattene subito, che fai una più bella figura. Sì, hai visto il casino è successo in Puglia? E vogliono fare la TAV, il bello che vogliono fare la TAV. Dai ragazzi, non va bene tutto, ma cosa c'entra? Cioè lì la Puglia è un binario unico, è proprio invece l'emblema delle due Italie, se non tre Italie, no? Da una parte la sicurezza estrema, l'alta velocità, eccetera, e lì invece si viaggia ancora a 40 anni in tratti a binario unico, e questo è il problema: zero investimenti in sicurezza e zero soldi spesi laddove, ripeto, la matrigna Europa ce li aveva dati i soldi, eh. Comunque siamo qui con Flavia Perina, alla quale facciamo sentire la Raggi. Eccola qua. Raggi. Ci hanno chiesto proprio questo, di non fare la solita passerella, perché evidentemente i cittadini sono abituati a questo, sono abituati a politici che vengono, vanno, fanno appunto la passerella. Ecco, infatti, niente passerelle, come ho detto io ieri, non è che adesso devo vedere la Raggi che tutti i giorni appunto la chiamano, c'è un coccodrillo sul Tevere, va lì a dire c'è il coccodrillo sul Tevere, c'è di qui, di là, che non si deve andare da una parte o dall'altra. Flavia Perina, fa bene? Come sta andando la Raggi? Beh, sono ancora i primissimi giorni, si è trovata alle prese con questa vicenda dei topi. I 5 Stelle sono sempre molto bravi su tutto quello che riguarda la comunicazione, quindi lei è accorsa a Tor Bella Monaca, che è il quartiere dove era stato registrato questo video con i ragazzini che in pratica giocavano con i topi che poi uscivano da un cassonetto. Poi è andata all'impianto di smaltimento che serve quella zona. Abbiamo visto in diretta i video di tutte e due le visite. E poi adesso dovrà ha fatto le passerelle. Lei dice si è informata, poi ci sono due modi di vederla, gli avversari dicono passerelle, lei dice sono andata a vedere De Visu la situazione, a rassicurare De Visu gli abitanti. Certo che Roma in questo periodo è particolarmente sepolta dalla spazzatura. Ora è stata promessa una sorta di pulizia straordinaria entro mercoledì, cioè l'assessore alla ricchezza urbana ha detto che entro mercoledì vuole almeno una decente pulizia di Roma, ma non sembra che l'AMA abbia molto recepito, perché non si vede tutto questo traffichio di mezzi AMA o di scopini o di gente che si dà da fare. Penso che il primo braccio di ferro che dovrà fare il sindaco sarà proprio con l'azienda dei rifiuti, con l'AMA, perché mi sembra che dietro a tutto questo ci sia l'inizio di un braccio di ferro probabilmente. Cioè, c'è anche il rischio di boicottaggio, dici tu, visto che la prassi delle aziende municipalizzate romane è questa, che quando loro vogliono qualcosa cominciano a mettersi in malattia, insomma a sparire dalle strade, a fare svogliatamente il loro lavoro, lasciano che la città si seppellisca di spazzatura o che gli altri non passino più. Ma è straordinario, è straordinario, sì, cioè, è tutto così, certificato, questa è proprio la strategia, no? È una strategia certificata. E io inizio a inondare la città di rifiuti e poi venditela tu con i cittadini. Vediamo che fai. Quindi sarà interessante vedere come questa nuova... Cioè, fino adesso le amministrazioni in generale hanno... si sono sottomesse, non hanno disturbato più di tanto, hanno cercato accordi, eccetera. Sì. Vedremo adesso la Raggi come si regolerà, se farà la stessa cosa o no, se cambierà i vertici, ad esempio, se si andrà a scontrare con i sindacati. Ma sai, appunto, i vertici lì, appunto, è quando i dipendenti poi ti infilano una serie di certificati medici perché i sindacati si arrabbiano. Insomma, i vertici, sì, certo, sono importanti. Lei ha promesso un cambio di passo alla città, lei sta nel guaio in cui stanno tutti quanti i rinnovatori quando poi vincono, ha promesso un grande cambio di passo alla città e su alcune cose questa è la prima cosa su cui dovrà dimostrare di essere in grado tutti di farlo. Tutti quelli che dicono cambiamo rischiano di essere poi travolti da questa promessa di cambiamento. Dall'ordinaria amministrazione che è più difficile da cambiare di come avevano immaginato. Io osservo ad esempio che ieri, facendo sempre questa visita sulla spazzatura, lei ha detto aumenteremo le multe a chi sporca, quello che i romani in questo momento vorrebbero è l'esatto contrario, è dire facci vedere il netturbino che doveva svuotare quel cassonetto pieno di topi e che stamattina non l'ha svuotato perché probabilmente le multe mi sa che servono poco come al solito, anche perché se sono promesse poi non efficaci. Ma le multe qualcuno deve fare e poi qua non è che c'è un problema di multe, ci sono i cassonetti pieni e il problema è di farle a chi non li svuota. A proposito di chi non si presenta al lavoro, invece c'è anche chi si presenta. Ragazzi, io quando ho visto questa immagine che oggi campeggia su tutti i giornali a Bosco Trecase in provincia di Napoli, dove un dipendente comunale, lì sono indagati 30 su 60 del comune, il sindaco dice rischio di paralizzare il comune perché i soliti furbetti della timbratura del cartellino sono. Uno si è presentato con un sacchetto di carta posticcio in testa per non farsi vedere dalle telecamere. Cioè, una cosa, io vi giuro, sogno un paese in cui dietro quella telecamera c'è un uomo, in realtà un uomo, una donna, c'è uno delle forze dell'ordine che esce in quel momento, trac, e gli dice cosa fa con questa che glielo toglie e lo mette alla gogna, proprio guardate bene la faccia di quest'uomo che timbra così. Io sto cominciando a diventare cattivo, cominciamo a sospendere il garantismo, licenziamolo in tronco senza neanche passare da un giudice, via, basta. Sono troppo niente. No, mi sono lasciato legge, prendere. Dovrebbe esserci in teoria una legge nuova approvata pochi giorni fa che dovrebbe consentire di fare questo nell'arco di un mese, di licenziare chi truffa sul cartellino. E poi c'è sempre un giudice che ti reintegra. Là è proprio un provvedimento che viene fatto, un provvedimento amministrativo, poi te la vedi col giudice dopo, tanto ti licenziano. Quindi anche nel caso questo della scatola è veramente al top. Con la scatola di scarpe. C'è una roba, ma che tristezza. Uno con la scatola in testa è veramente il top. Siamo ai confini della realtà. Tra l'altro non credo che sarà difficile riconoscerlo. È stato già riconosciuto. Immagino già gli è stato riconosciuto. Sì. E per qualcuno queste persone invece sono eroi. I furbi. Immagino già, guardali che furbo. Questo come gliel'ha fatta. Trac, la gogna. Esce uno. Mi scusi, possiamo togliere questo sacchetto e far vedere la sua faccia? E non dico cosa a tutto il mondo. Ci dice anche due parole su questa, su come mai, insomma, perché è così difficile andare a lavorare normalmente, veramente non ci si crede. Cioè, persone che hanno un posto garantito, uno stipendio, la tredicesima, le ferie pagate, la malattia, ma vai a lavorare. Olivier, anche tu, sì, Olivier. Ecco. Pensa Olivier, 24 ore su 24, certo. Il barbiere di Hollande, sempre a disposizione. C'è per 593.000 euro l'anno, però insomma il barbiere Olivier. Quello la scatola in testa non se la mette. Quello no. Al primo squillo di Remo risponde. La mette a Hollande la scatola in testa, perché a volte è inguardabile. Non è un capo di Stato, per carità, massimo rispetto. Allora dai, ringrazio Flavia Perina, vi lascio, ce la facciamo a sentire De Luca sulla bambolina Raggi dall'Ira TV. Dai, De Luca, vi lascio con questa. Bambolina è più un complimento che un'offesa, tra l'altro. Bambolina, diciamo, è anche un termine che per noi è familiare, noi che viviamo qui, lavoriamo a Napoli e abbiamo familiarità con le porcellane di Capodimonte, diciamo, quindi sono termini che sono più ricchi di gentilezza e di grazia che di altro. 1, 2, 3.